ciebie potem zmiewer. My se from esto, ki tu lim silver. Dis, nie odi go fil dalle spasse. Ki su round delle pria. Fe un streamer a to de, attraversando il tuo nespa.